Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Eccoci qua anche questo sabato mattina alla scoperta dei progetti più interessanti presenti sulla piattaforma Appela. Ne abbiamo scelti due che tra pochissimo si sfideranno per conquistare il voto dei nostri giurati, scelti tra gli ascoltatori. Sono due progetti di inclusione e solidarietà, quindi due progetti entrambi a sfondo sociale. Io presento i nostri giurati, che sono Emanuela da Verona, che abbiamo appena sentito. Di nuovo buongiorno. Grazie Emanuela di fare la giurata, ha appena cantato Io, tu e le rose, bene direi. E poi ritroviamo Nicoletta da Latina, ciao Nicoletta. Ciao, sono qui. Che prima aveva cantato Maledetta Primavera, anche lei la sua canzone di Sanremo. Io vorrei che entro la fine della puntata ci fosse almeno un uomo che canta, perché come sempre sono le donne che si buttano di più. Cari giurati, restate concentrate, ecco i due progetti, vai. Il primo progetto si chiama Blind Helper Braille, è il progetto per una stampante Braille alla portata di tutti. I modelli in commercio sono infatti molto sofisticati per stampare in questa modalità per i non vedenti, ma anche molto costosi. Questa stampante invece utilizza normali fogli A4 ed è totalmente open source. Ovvero vuol dire che i progetti per realizzarla saranno pubblicati gratuitamente sul web e chiunque potrà costruirsi la propria stampante. Ce ne parla Fabio Piana, l'ideatore del progetto, che con questa campagna vorrebbe raccogliere 4.000 euro per completare lo sviluppo. Ciao, buongiorno. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora, minuto, poco più, per spiegarci perché possiamo investire in questo progetto. Grazie. Allora, l'idea alla base della nostra stampante è proprio quella di realizzare un'apparecchiatura disponibile per tutti, quindi realizzabile da chiunque con componenti disponibili in commercio oppure stampabili con una stampante 3D. E diciamo che è un progetto che è basato sul microprocessore Arduino e consente di stampare su una pagina normalmente reperibile in commercio, come ad esempio un foglio di carta di cartoncino, ed ha ricevuto il sostegno dell'IRIFOR, che è un istituto di ricerca dell'Unione Ciechi e Provvedenti italiana, e ha anche partecipato alla Maker Fair di Roma a ottobre. E come intendiamo utilizzare i fondi? Intendiamo utilizzarli per continuare lo sviluppo del software del progetto e poi realizzare il sito con le istruzioni e i tutorial per la costruzione e soprattutto migliorare la parte meccanica per renderla utilizzabile a tutti gli utenti. Perfetto, immagino che questa stampante Braille meno costosa può essere per esempio utile anche per molte scuole. Sappiamo sì, che i soldi nelle scuole ce ne sono sempre pochi. L'utilizzo che avevamo previsto era proprio quello per gli insegnanti delle scuole dove ci sono praticamente dei studenti non vedenti, per la preparazione degli appunti. Perfetto. Per le lezioni e anche l'utilizzo domestico da parte degli studenti. Benissimo, certo. E questo era il primo progetto. Cari giurati, restate concentrati. Adesso vi presentiamo il secondo progetto di crowdfunding. Si chiama Valgio ed è presentato dall'associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania Onlus, che ha dato vita appunto a Valgio, un marchio. Si tratta di un marchio che raccoglie i prodotti nati dal progetto Orti Sostenibili. Orti Sostenibili in Piemonte ha dato lavoro a molti giovani in difficoltà, impiegandoli nella coltivazione di frutta e verdura da distribuire alle famiglie bisognose. Oggi la sfida è portare i prodotti Valgio oltre il Piemonte grazie all'e-commerce per aiutare in futuro sempre più famiglie. Il traguardo è di 10.000 euro, il traguardo da raggiungere. Ce ne parla Nadia Valsania, buongiorno. Ciao, anche a te, buongiorno. Nadia. Buongiorno. E allora anche a te un minuto, poco più, per spiegarci perché possiamo sostenere questo progetto. Benissimo, grazie. Buongiorno a tutti. Investire su di noi vuol dire aiutare i nostri volontari ad accogliere la sempre maggiore richiesta di famiglie che in difficoltà bussano alla nostra porta, per dare a loro qualcosa di più. Il marchio Valgio si chiama appunto Buono e Giusto, buono perché utilizza delle tecniche tradizionali che rispettano la natura nella loro coltivazione, nella loro crescita, e senza l'aggiunta di insomma pesticidi o insomma seguendo il corso della natura. Giusti perché per realizzarlo scegliamo persone in stato di fragilità sociale a diversi livelli, quindi è un progetto di inclusione per far sì che gli individui possano trovare nuovamente una dignità. Valgiò porta in sé il nome di Giorgio Valsania, mio fratello che a 18 anni ha perso la vita, e sul suo diario scrisse che l'amore non muore mai. Per noi il progetto Valgiò quindi è amore di Giorgio, ora amore per tutti. Di conseguenza questi soldi verranno utilizzati per aumentare l'utenza della nelle nostre serre e quindi poter promuovere altre borse lavoro per poter aiutare più persone. Certo, benissimo. Basta. Grazie Nadia anche per essere stata nel minuto. Avete pensato a delle ricompense per ingolosire i possibili sostenitori? Assolutamente sì, perché ci fa piacere che la gente possa assaggiare i nostri prodotti che sono oltre molto buoni e vogliono salvaguardare la salute e l'alimentazione. È l'arma segreta di questo crowdfunding, in realtà sono i prodotti che ci sono come ricompensa per chi vuole investire. Allora, cari ascoltatori giurati, quale dei due progetti vi ha convinto di più? Cominciamo con Emanuela da Verona. Emanuela. Sono qui, ciao. Senti, sono tutti e due dei progetti validissimi e ho molta difficoltà nello scegliere, perché uno è mirato per gli ipovedenti e per le loro necessità, mentre l'altro guarda uno specchio di persone molto più ampio e magari... Però è giudice, quindi deve abbiamo bisogno di una scelta. Emanuela. Mi mettete un po' in imbarazzo. Voterei il progetto della cultura sociale. Orti sostenibili, Valgiò, perfetto, un voto per Valgiò. Grazie Emanuela, complimenti. Ha già spiegato che un po' le motivazioni per cui tutti e due i progetti in realtà sono convincenti. Nicoletta da Latina, quale dei due? Anch'io sto molto in difficoltà, perché poi la questione orto mi sta molto a cuore. È una sfida molto ad armi pari questa qua. Sì, però scelgo il primo, la stampante Braille. Ah. Perché, a parte per un mio ricordo personale, perché al liceo avevo un insegnante di filosofia e il professor Capirci che era non vedente, quindi fu una figura davvero per noi significativa, insomma la porto nel cuore. Quindi, e poi perché è un progetto che si occupa, diciamo, non so, delle minoranze, cioè di una porzione di umanità. Giusto. Anche giusto. Se poi magari sono tantissime le persone non vedenti, no? Però mi piacciono quei progetti che si occupano di una piccola parte dell'umanità a cui non si pensa. Bene, Nicoletta. E noi adesso siamo parità fra Blind Helper, Braille e Valgiò. Abbiamo anche un altro ascoltatore, Antonio da Napoli, che tra poco canterà a Sanremo per noi. Antonio, ascoltate i due progetti. Buongiorno intanto. Buongiorno. Vuoi dire anche tu la tua su questi due progetti? Ce n'è uno che ti ha convinto di più? Il secondo progetto, quello alimentare. Quello alimentare, perché? No, semplicemente perché sono un appassionato di cucina, un appassionato di alimentare, quindi va bene. Molto semplice. Così ti butti per istinto, Antonio. Sì. E in questo caso fai pendere la bilancia a favore di Valgiò, ma naturalmente, che quindi vince simbolicamente il Crowd Me Up di oggi, ma noi naturalmente vi invitiamo ad andare sulla piattaforma di Apple a finanziare, sostenere tutti e due questi progetti o altri, se li trovate interessanti, anche sul sito di Radio 24, la pagina Si Può Fare. Complimenti a tutti e due i nostri interlocutori, Fabio Piana, Blind Helper Braille, e Nadia Valsania di Valgiò. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Complimenti. Crowd Me Up torna la settimana prossima. Grazie anche ai nostri giurati. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple.